Now boarding. A malapena riesco a mandar giù. Now boarding. Welcome to the Radio Connection. Insieme a te. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Lola, ho fatto le pazzie per te. Bentornati a bordo, a me scende la voce, ma noi siamo ancora qui, Now Boarding Radio su Radio San Donà. Come ogni mercoledì vi portiamo in giro per il mondo e portiamo il mondo a casa vostra. Io Francesco e il buon Riccardo, sono sempre io. Ciao. Ehi, ragazzi. Ciao, benvenuti. Ciao, ciao a tutti ragazzi. A posto? A postissimo. Spiegami questa cosa. Bene. Del mi scende un po' la voce. Ho iniziato il saluto e mi è calata la voce d'improvviso. Piccolo checco. Che caro, che caro. Mali di stagione, dicono. Che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? Se teniamo? Siamo pronti, puntata europea. Oh yeah. Questa volta. Sera dove andiamo? Lo diciamo dopo? Ma diciamolo pure dopo, tanto si capisce dalla canzone, no? Bene, cosa ci ascoltiamo? Tu come sei con la pronuncia? La pronunci tu? Je suis una merda. Ok, sappi che il francese è una delle lingue che io più detesto, quindi proviamo insieme. Dai. Noir Désir con Un jour en France. Vai. Un jour en France. Liberté, égalité, fraternité, Queste sono le uniche tre parole che so in francese. Infatti, anche le mie. Dove siamo questa sera, Checco? Siamo questa a Parigi. Sera siamo a Parigi, oui. Bonsoir. Abbiamo Mauro questa sera. Ciao Mauro. Ciao, bonsoir a tous. Oh, bonsoir a tous. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Voi qua, tutto bene? Bene, bene, benvenuto a Snowboarding. A Parigi che si dice? Dovrebbe dire tutto grazie bene nel frattempo. A Parigi bene, non piove più. Fantastico, non piove da circa 4 mesi, cosa abbastanza originale per Parigi. C'è sempre sole. Non solo Miami quindi, ma anche Parigi. No, non proprio Miami, c'è un po' il freddo, però vabbè, insomma. 4 mesi che non piove. I soliti inverni parigini. Aspetta che arrivi. C'è sempre più sole, diciamo. Direi che... Sì, lo sentiamo pimpante, quindi lo castighiamo subito. Okay. Cosa dici? Terzo grado? Terzo grado. Vai, ti facciamo un po' di domande. Età? Vai. 23. Adesso sei a Parigi. Dove sei? A casa? In giro? Al bar? Ora sono a casa. Sei in centro? Dove abiti? Così se ti troviamo... Allora, sì, vicino al centro, vicino a Montmartre. Ah, però, abbiamo trovato dove chi ci ospita. Alla grande. Non distante. Cosa fai a Parigi? Studio cinema, faccio un master all'università di Paris 8, okay, ma... a nord di Parigi. Ok, da quanto tempo vivi lì? Allora, vivo da giugno, però ci sono stato un anno in Erasmus, 2 anni fa. Ma quindi prima di trasferirti lì, dov'è eri? Avevi base in Italia? Prima di trasferirmi a Parigi stavo a Roma, ho fatto la mia triennale a Roma, ho fatto un anno d'Erasmus, ho amato Parigi e sono ritornato per stabilirmi qui. Forse definitivamente, insomma. E era, a parte quell'Erasmus lì, era la prima volta all'estero? No, ero già andato, ma con i miei genitori quando avevo 14 anni, quindi vabbè, non ha niente a che vedere. Certo, insomma, certo. L'esperienza Erasmus naturalmente cambia la vita. Ok, e quindi appunto sei andato, Erasmus, sei tornato, sei lì, e per quanto tempo rimarrai da quelle parti? Insomma, sinceramente finché posso e finché voglio, nel senso adesso mi trovo bene qui, benissimo qui, non ho voglia di andarmene, poi insomma adesso è il primo anno di master, ne avrò un secondo e poi vorrei continuare col dottorato, almeno queste sono le idee di partenza. Bene. E poi la città, insomma, anche non solo l'università, ma la città anche è meravigliosa e quindi voglio restare qui. Perfetto, ascolta, dati i rapporti tra italiani e francesi, hai già iniziato ad odiare gli italiani? No, la mia ragazza è francese, quindi gli italiani, i rapporti tra italiani e francesi sono un po' stereotipati. È vero che i ragazzi francesi sono gelosi dei ragazzi italiani perché vanno con le francesi, ma non è vero che non si apprestano e non si amano. Beh, però siamo noi, diciamo, i più ostili. Domanda veloce, Zidane o Materazzi? Materazzi, tutta la vita. Vedi che... Okay. Nonostante stereotipi e luoghi comuni, ma perché sono interista. Grande, grande, ce le ha tutte. Dai, ci ascoltiamo i Phoenix con 1901, dovrebbe essere 1901. In francese, in francese? 1901. Merci. Ideas drifting away. Che come tu te li ricordi questi, chiaro? Mi ricordo, sì. Come faceva la canzoncina? Ah beh, io con il canto If sono un I po' negato. Never feel better. Mi sa che sono proprio quelli. Na na na na na na. Ci sei, Mauro? Sì, ti sono ottima la pronuncia parigina e anche il canto, direi. Ah oui, merci, merci. Très bien. Bene, e dai, dai, raccontaci un pochino, un po' il percorso universitario che hai fatto. Sì. Cioè, immagino allora, che a questo punto volessi seguire dall'inizio la passione per il cinema, è una cosa che è venuta dopo. Allora, la passione per il cinema è una cosa che è nata a Roma. E io a Roma sono andato all'età di 19 anni. Ho deciso dopo il liceo di partire e di non continuare, insomma, di star lì nelle zone che magari possono essere Padova o Venezia, diciamo, le città le più, insomma, sì, dai, più indicate per lo studio, sì, dove magari quelli che fanno il liceo a San Donato, a Jesolo, vanno quasi sempre lì, no? E quindi ho voluto un po' staccare la spina e cambiare radicalmente, andare a Roma. E a Roma ci sono stato 2 anni. Dove ho studiato alla facoltà di lettere, indirizzo cinematografico. Ma la passione per il cinema è nata in itinere, è nata durante gli anni e soprattutto il secondo anno, che è poi l'anno che mi ha permesso di postulare la candidatura per l'Erasmus e sono andato a Parigi e da Parigi poi tutta la vita è cambiata, insomma, sì, radicalmente. No, ancora più di Roma. Sì, un altro mondo, dici, o proprio i tuoi modi di fare, i tuoi interessi? Due città opposte, sì. Attualmente opposte, nel passato magari simili a livello di arte, di cultura, così, ma attualmente veramente opposte. Roma e Parigi sono... Roma vale veramente a livello di cultura pochissimo ora, è una città veramente morta e pigra. E Parigi rispetto a Roma è qualcosa di veramente sublime, incredibile. E quindi il tuo Erasmus è stato un po' un trampolino, no, per sì, poi è questo stato, è stato un inizio, diciamo. Naturalmente poi l'Erasmus è un'esperienza in cui, insomma, il primo obiettivo ha studiato tantissimo in Erasmus, lo vedo. Che hai fatto un sacco in Erasmus. Sì, tantissimo, sì. È un'esperienza veramente che cambia la vita, assolutamente. Ascolta, ma master in cinema praticamente è una specialistica, no? Tu hai finito è una specialistica, un master teorico in cinema. Sono più orientato verso il giornalismo cinematografico che verso la realizzazione. Scrivo già per un web magazine in Italia di cinema e anche di politica francese, però insomma di cinema anche scrivo già. Ed è il lato giornalistico che mi interessa, la scrittura, scrivere di cinema, ed è per quello che prima vi ho detto anche, quindi continuare dopo il master con un dottorato di ricerca e vedremo, visto che insomma anche qui l'idea, dico, della politica dei dottorati di ricerca è completamente diversa dall'Italia, insomma, dai baronati italiani. Ah, ok. Quindi anche più possibilità, cose così, non so capire. Possibilità, sono logiche che si basano sul merito, capisci? Quindi sì, cosa che quella noi viene mai un po' meno. Insomma, non c'è quel clientelismo che c'è da noi, non lo so. Io stando alla Sapienza mi sono reso conto, insomma, di tutto ciò. La Sapienza è il centro del baronato italiano. Certo. Quindi, diciamo, appunto, ti forse indirizzi verso, no, dimmi se sbaglio, un futuro in qualche modo nell'ambito della critica cinematografica, queste cose qui? Critica è quello che dico. Scusate se vi blocco, ma perché tipo quello che mi fa venire in mente, che ecco adesso, è che se tu mi parli di master in cinema, a me automaticamente viene in mente questo vuole andare a fare il regista, o cioè c'entra qualcosa o... Sto lavorando a un progetto. È mia ignoranza personale. Giustamente sto lavorando a un progetto per un documentario a Berlino quest'estate, però è una cosa che non ha niente a che fare con la mia facoltà. C'è un mio progetto. È un mio progetto che sto sviluppando a lato. E non ha niente a che fare con l'università. L'università è più un master teorico e si chiama Storia, Analisi Estetica del Cinema, quindi non ha niente a che fare col pratico, anche se è importante soprattutto per materie letterarie o comunque culturali unire la teoria e la pratica, altrimenti siamo delle carenze. Ma quindi questo dottorato di ricerca come funzionerebbe? Cioè, il master abbiamo capito più o meno. Il master è un progetto di ricerca. Sì. Senso, ma tu cosa che ricerchi? Tu soggetto, hai un direttore di ricerca che è un professore di università che ti segue in due anni. Ci sono anche i corsi, no? Sì, come, certo. come anche in Italia. Il dottorato di ricerca naturalmente è lo sviluppo del tuo soggetto, naturalmente più ampio, che può poi sfociare in un libro, ma queste sono cose proprio future, dico. Però il primo obiettivo è continuare nell'ambito universitario, quindi prima, qui si chiamano maître de conférence, che in Italia potrebbe essere gli assistenti, diciamo. Sì. E poi professori, e quindi insomma il dottorato è quella via, la via universitaria, assolutamente. Ok, ma cioè, o che sono tardo io non ho ancora capito cosa fai tagli preciso, cioè in parole povere, cioè tu stai studiando per comunque presentare un progetto? Allora, no, sto cioè che lavoro potresti fare dopo? Non mi manca questo passaggio. Giornalista sicuramente, sì. Sicuramente. Io poi la carriera universitaria è una mia idea. Sì, ok, sicuramente. No, scusami, non volevo fare il giornalismo. No, ma okay. Però il giornalismo è una cosa che già faccio, ripeto, scrivo già per un giornale in Italia e voglio continuare su questo lato. Okay. Per questo giornale è italiano, hai detto? Sì, è un web magazine in internet, si chiama rivoluzioneliberale.it. Ho capito. Faccio anche un po' di pubblicità. Vai, non ci mancherebbe. Ascolta, ti ho sentito ovviamente, come si dice, fa riferimento a termini francesi, quindi nell'università la lingua è il francese, non l'inglese, no? Sì, e poi sapete che sono molto sciovinisti qui, e quindi figurarsi, parlare l'inglese e tutto, tutti devono sapere il francese, soprattutto tutti sono alla pari. Nel senso, anche uno straniero che arriva qui, anche in Erasmus, ognuno era già trattato come un francese, come un parisino, e quindi anche il metodo di correzione dei compiti era veramente uguale. Baguette sotto braccio e alè. Baguette sotto braccio. Comunque, certo. Checo, vedi che libertà, egalità e fratellità che ho detto prima non era tanto una cazzata. No, ti aiuta sempre. Sono stato bravissimo. Noi siamo un po' tu prima parlavi di luoghi comuni, noi siamo i re dei luoghi comuni. Comuni. Vabbè, ma. ma i luoghi comuni però sono sempre qualcosa di vero dietro, cavolo. Esatto. Baguette, la puzza sotto le ascelle. Eccola là, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lui. Ma le francesi, le francesi come sono? Le francesi sono eleganti, raffinate, splendide. Siamo in fascia protetta, no? Non possiamo dire Sì. Poi si sente che è innamorato di una francese, tra l'altro. Per quello sta parlando così. Ah, ecco, infatti. Bene. L'amour. Cosa dici, Checo? Dico traccia numero 3, scelta anche questa. Da Mauro Plastic Bertrand, pronuncia giusta? Sì, perfetta. Saplan pour moi. Saplan pour moi è il tormentone delle feste parigine. E vai, allora vai con questa festa parigina. Oh yeah. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. L'ho già imparata, Mauro, ma toglimi una curiosità, ma quindi questa che dicevi che ha preso il posto, no, che è nelle feste è il must delle feste parigine, ha preso il posto di Sam & Nerve? Sì, ma Sam & Nerve è una tamarrata, questa è un po' cosa? Figa. Cosa no, dai, anche questa è una tamarrata, però è figa lo stesso. Però no, non è tanto tamarra questa, pensavo peggio. Cioè, quando no, feste no, dai, questa no. Ma tra l'altro non è rifatta da lui, questa è la versione da festa, diciamo. Ah, okay. Hanno rifatta anche i Vampire Weekend. Ah, ok. Il gruppo di Brooklyn recentemente. Bene, Checco, visto che non so chi sono i Vampire Weekend, mi sto incartando, vuoi andare avanti tu? Buttiamola sulla cultura. Ti ha detto che, insomma, da quello che ho capito, uno dei motivi che ti hanno fatto andare lì è stata proprio questa differenza, no, del clima culturale valorizzato, no, a Parigi. Sì. Ce ne parli, sì, un po'? Assolutamente, a livello di cultura e soprattutto di cinema, visto che è di quello che soprattutto mi interesso. C'è proprio una differenza abissale tra Roma e Parigi a livello di stimoli, proprio a livello di valorizzazione anche. Guarda, faccio un piccolo esempio, faccio ad esempio, esistono qui una carta cinema, si chiama UGC Illimité, limitato naturalmente vuol dire, e che con 19 euro mensili ti permette di andare al cinema quante volte vuoi. 19 euro, quindi tu puoi andare, non lo so, 10 volte al giorno, poi puoi andare, non lo so, 2 volte, e alla fine paghi sempre quei 19 fissi. Mm-hmm. E sono delle, questo è solo naturalmente un'idea, è un, ma puoi vedere tutti i film che vuoi o solo i film francesi? Cosa? Puoi vedere tutti i film che vuoi o solo, ecco, i film francesi? Ecco, la differenza è che i film qui sono tutti in lingua originale con i sottotitoli. Io mi sono abituato anch'io a queste idee. Ma va? Sì, sono tutti, e tu dici ma va, però siamo noi l'eccezione. Sì, cioè, sì, all'estero, sì, all'estero siamo noi l'eccezione, perché parlando anche con la gente, con i miei amici, dico ma perché, insomma, da noi sono doppiati, dico, i film, perché in un certo senso naturalizza l'attore, in effetti è vero, anche se la nostra scuola di doppiaggio è stata una grande scuola, soprattutto nel passato con Ferruccio Amendola e con De Niro, sì, eccetera, sì. Però mi sto abituando e in effetti è, boh, è un'altra idea veramente di vita a livello cinematografico da questo punto di vista. Poi dal punto di vista anche del prezzo, appunto, della possibilità delle persone, cioè anche il panettiere, anche il spesso magari ci si ferma a parlare, a dire due o tre cose, anche a parlare di cinema col panettiere o col piccolo commerciante dell'angolo. Sì, dai, possono permetterselo tutti e tutti ci vanno di più, insomma, non come da noi che diventa una cosa proibitiva andare al cinema una sera. No, perché se costa già 10 euro andare al cinema, va bene una o due volte così al mese. Da noi costa 8, da quant'è che non vieni qua te? 2 mesi. Ecco, 8 euro, 8 euro il biglietto fisso. 8 euro fai già 3 posti e già ti sei riguadagnato la carta, ma questa è solo un'idea, poi anche a livello di sconti, tutte le carte, e poi a livello di movimento, di una città dinamica a livello culturale, non solo a livello di cinema. Roma invece è morta e sepolta, veramente. E si compiace delle sue bellezze, ma bellezze storiche. Sì, non ha nulla di innovativo, insomma, non ha slanci, giusto? Questo è quello che volevo dire. Sì, questo è il problema, è che da noi c'è l'idea che la cultura deve essere per pochi. Una stronzata, scusate, una cavolata incredibile. Ah. E mentre qui c'è un'idea più democratica, più fruibile, tutti più possono accedere. Questo è fondamentale per me, secondo me, anche per un paese, per le persone. Certo. Perché poi se ci chiediamo se ci sono problemi anche a livello politico, a livello di tutto, perché i politici sono lo specchio degli italiani, insomma. Sì. Ascolta, tu hai detto che hai visto un po' una Roma che vive del suo passato, io sono abbastanza d'accordo, però nella mia testa anche Parigi ha questa immagine, mi sbaglio, allora? Sì, vive nel suo passato, è molto conservatrice, diciamo anche che è molto legata alle proprie tradizioni, e questo è legato anche al nazionalismo francese, sicuramente i francesi sentono molto dal punto di vista culturale sentono molto la rivalità con l'Italia, però sempre in un'ottica abbastanza amicale, secondo me. E invece è comunque una città che ad esempio si sviluppa anche diciamo verso il futuro, verso l'avanguardia. Qui ad esempio a livello di esposizioni, anche a livello di città, qui stanno progettando le Grand Paris, che sarà una grande città con tantissime sale, tutto, e sale di cinema, di teatro, all'avanguardia. Quindi è una città che si muove, è dinamica e è proiettata anche verso il futuro. Roma assolutamente no. Ho capito. Quanto ad altre manifestazioni, magari hai avuto modo di entrare in contatto, oltre a quelle prettamente cinematografiche, così continuiamo a farci l'idea della cultura da quelle parti? Sì, anche l'opera, ad esempio, l'opera, andare all'opera qui per un giovane di 20, che ha meno di 26 anni costa anche 20 euro, per dirti. Per dirvi, due anni fa sono stato a vedere una prima di un'opera di Wagner e di fronte a me c'era l'ex primo ministro francese. Perché ai giovani danno i posti migliori a un ottimo prezzo. Ah, questo quindi... per stimolare, naturalmente. Certo. E quindi è tutta una politica che comprende tutte le arti, non è solo il cinema. Del cinema posso parlarvi meglio perché naturalmente è il mio ambito, il però ambito. Anche all'opera, il teatro lo stesso, i libri e tutto, insomma, è tutto più accessibile. Ho capito. È una zona un po' più ricca culturalmente, dove magari uno sente di più il fermento? A livello di cultura sicuramente vicino al Pompidou, al Centre Georges Pompidou, che è il museo di arte contemporanea, e poi vicino sono tantissime biblioteche e c'è il centro commerciale Les Halles, che comprende questa Rue de Cinéma, che è una strada sotterranea, dove ci sono è un centro commerciale, c'è questa strada che è proprio chiamata Rue de Cinéma, dove ci sono tantissimi luoghi per usufruire, per godere il cinema, teatro e tutto, insomma. C'è tutto in uno in questo quartiere che è o meglio arrondissement, come è divisa Parigi, che è il terzo, appunto, ed è tutto lì, insomma, vicino anche agli Champs-Élysées, non sono distanti, ma è un po' la zona del Centre Pompidou. Ho capito, ho capito. Ricca, diciamo. Ma quindi tu ti trovi, da quello che capiamo, ti trovi da Dio a Parigi, no? Sì, stai benissimo. Ma quindi vedi anche delle prospettive di lavoro nell'ambiente culturale? Come ti vedi? Sì. Come ti vedi tra tre anni? Finito il master, pancetta, capello bianco. Vasco. Fra tre anni mi vedo un dottorato di ricerca. Sì. Vedo quindi studioso con una borsa di studio. Ricercatore con una borsa di studio e che scrive per un giornale anche qui francese allo stesso tempo, magari. A livello di stage, ad esempio, qui gli stage sono pagati. Da noi è facile trovare stage non pagati, dove la gente è totalmente sfruttata. Qui tutti gli stage per obbligo di legge sono pagati, un minimo. Il minimo è naturalmente 600 euro, che non è poco, secondo me, insomma, per un mese. No, qui non ti danno uno stage, te lo assicuro, soldi per stage si sono in pochi che te lo danno, e quelli che ti pagano è uno stage mascherato, diciamo che è un lavoro normale mascherato da stage. Ecco appunto, se vogliamo fare una critica pubblica. Vabbè, sì. Per non andare troppo sul serio, direi che possiamo anche fare uno stacchetto. Dicevo che stiamo andando troppo sui discorsi seri. Sì, dopo qua c'è Italia, non casino. Dai, ci ascoltiamo un gruppo parigino che di parigino non ha nulla. Sono i Jamaica. When do you wanna stop working? You wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. When do you wanna stop working, I don't know. It's the face you make when you dance, dreams you have when I'm not there. You tell me about your parents, you tell me about your friends, you tell me about the girl who wants got another boyfriend, you tell me about the rain, how it is to handle business, you tell me about the bomb and I couldn't care less. When do you wanna stop walking, I don't know. When do you wanna stop walking, I don't know. When do you wanna stop? Ben rientrati in studio Now Boarding Radio da Parigi. Mauro? Eccoci. Eccoci. I seri, l'abbiamo fatto i seri. Raccontaci un po' come si vive lì, dai. Diciamo che entriamo nella parte che interessa a me e che abbiamo già esaudito le sue richieste. Cinema, cultura, festa a Parigi. Festa totale e continua 24 ore su 24, ma soprattutto feste veramente strane, due anni fa ad esempio, perché sono feste che si fanno annualmente due volte all'anno, sono andato a questa festa nelle catacombe, una festa veramente assurda perché si entra proprio da un tombino e quindi all'inizio eravamo questo gruppo e queste ragazze spagnole che entravano così a raffica, però quando mi sono avvicinato io, questo mio amico italiano, dico cazzo, ma dove si entra? Infatti si entra veramente da un tombino e si va e si scende in queste catacombe, naturalmente dalla parte illegale. E sì. Si entra grazie a questi parigini che sono probabilmente figli di qualcuno che ha chiavi o posti o ha conoscenze per entrare. Sì. E si entra e ci si trova all'interno di questa festa sotterranea assurda, questo mini rave, diciamo, dove c'è un po' di tutto e dove anche succede un po' di tutto, diciamo, a tutti i livelli. È un rave sotto la casa di Sarkozy, praticamente. Sotto la casa di Sarkozy, assolutamente. E c'è anche Carla Bruni che va di nascosto, direi. Sì, sì, visto sì. Visto le sue abitudini. Tutto, perché lì poi veramente portano di tutto, portano birre, anche non so ancora come, sinceramente, anche la console, per dire, non so ancora come l'abbiamo portata dentro a misura di tombino. Genere di musica si spazia rock, su un po' di dal tutto, rock all'elettro, dal rock all'elettronica, un po' di tutto. Ma tipo feste più commerciali a Parigi, cioè tipo i vari Cassius, Martin Solveig. Il Rex è la patria dell'elettronica, per tutti quelli che amano l'elettronica, il Rex assolutamente l'indirizzo, a Grand Boulevard, assolutamente. Poi a Grand Boulevard ci sono tantissimi altri locali come il Truskell, che è un altro splendido locale di Parigi, piccolino, un pub dove suonano spesso gruppi rock, indie, così in acustico. Mm-hmm. E poi assolutamente. Com'è il nome di questo? Truskell Club. Ok, zona? E poi la Flash Door che è mitica veramente, è un locale mitico qui a Parigi, è un'ex stazione che tra l'altro è qui a 200 metri da casa mia, era un'ex stazione degli anni 30 e ora è stata riammodernata ed è da 20 anni uno dei centri della vita notturna parigina. Okay. E soprattutto luogo di incontro anche per insomma manifestazioni artistiche, culturali e naturalmente per concerti. Sì, devo dire che a me piacciono un sacco questi ex, qualsiasi cosa sia ex e poi riutilizzata, cioè secondo me è un valore aggiunto, no? Il passato di un edificio, la storia precedente. Ma quindi Mauro, facci l'idea, una serata tipo, come può essere? Allora, una serata tipo e anche ovviamente siccome chi ci ascolta magari è interessato anche a venire, per dirti. Sì. E anche prezzi, parliamo proprio tranquilli senza nessun problemi, in modo che uno si faccia già un'idea e sii sincero comunque. Sì, sincero, allora naturalmente fai bravo. I prezzi sono belli altini qui. Okay. Anche si può trovare un po' di tutto, quindi di solito si prende al supermercato e si beve a casa mia o a casa di degli amici. Okay. E poi si parte, in estate si va sempre al Pont FMR che è lungo il canale San Martin e si beve un po' fuori, c'è questo lungo canale e dove c'è questo locale che è veramente un luogo di incontro di tutti, insomma, gli amici, poi io insomma seguo questo giro. Sì. Però Juan FMR che chiude di solito non troppo tardi, alle 2:30, alle 3 di mattina, e poi si continua verso Grand Boulevard e soprattutto, questa è una cosa importantissima, si può muovere a piedi o anche in bicicletta qui. Cioè Parigi non è quella metropoli enorme che si pensa, è una città veramente a misura d'uomo, quindi festa fino alle 2 a Truskell, poi ben alterati al Rex fino alle 8 di mattina, anche se diciamo non c'è l'idea della festa veramente fino a mezzogiorno che c'è a Berlino. Uh-huh. alle 6 è tutto chiuso, questo. Okay. sicuro. Ma pensa che qui da noi non è un po' come noi, dai, insomma. Sì, ma da noi sai adesso c'è il discorso che chiudono alle 2, dicono che non si può più dare da bere, poi alle 4 spengono le luci, anzi accendono le luci e dovremmo andare più a casa, però alla fine non c'è nessuno che lo fa, credo. No, ma anche qui ad esempio a livello di bere, vabbè, tutti bevono a casa propria e poi escono già belli altici. Sì, un po' come fanno da noi, che si vedi questi parcheggi pieni con tutti i bagagliai aperti e sta gente lì che fa. Ma quindi alla fine, cioè per tornare un attimo al discorso, cioè all'inizio del discorso, una serata per dirti, io esco, ok, vado a bere a casa degli amici e tutto, vado in discoteca. È fondamentale però la casa degli amici, okay. Perché si inizia già a conoscere, okay. A già fare. Ok. E prezzo della serata? 40 euro? 50 no, euro? No, vabbè, 40 fai una serata pazzesca con 40. Ah. No, ma è tutto. Ecco, qui si fanno tante feste in casa, diciamo, negli appartamentini. Mm-hmm. Se nel giorno, ma se magari durante il giorno si sta molto fuori, si scopre Parigi, ogni angolo, la sera insomma si è soliti fare feste in casa spesso, piuttosto che andare in un locale, dico. Mm-hmm. Non come proprio, si mangia a Parigi? Per risparmiare, proprio perché è proprio una concezione di fare festa a casa e poi magari verso le 2 andare, beh, quando veniamo da me magari qui vicino c'è la Fresh Door come vi ho detto, e quindi ho anche la Marocchineria e la Bellevilloise che sono due altri locali, e quindi è molto più facile. Però magari quando siamo in un'altra zona, magari in banlieue, in periferia, volevo dire, sì. E si fa festa lì e si sta lì in una casa. Ultima cosa, Mauro, e poi dobbiamo stringere un attimo il tutto. E per problemi di tempo nostri ovviamente. Certo. E noi italiani siamo un po', diciamo, particolari sul cibo. In Francia come stereotipo nostro si sa, cioè noi pensiamo che non si mangi tanto bene. Dove ci consigli di andare a mangiare cheap and chic ovviamente? Allora mangiare italiano o francese? Ah, quello che vuoi, basta che, cioè se io vado a Parigi e voglio sapere dove andare a mangiare, non spendere una fortuna, però saziarmi in maniera decente, che non ci siano creme, cremine, eccetera eccetera eccetera. Allora non francese, allora. Okay. Creme e cremine perché le mettono dappertutto. Ok. L'internazionalismo. Un posto che ti viene in mente così. Un posto italiano si chiama La Matta. La Matta. Okay. La Matta. Va bene. Un posto francese? Nel sedicesimo, che è l'arrondissement più ricco, ma questo posto è veramente a rapporto qualità-prezzo ottimale. Perfetto. La Matta, assolutamente. Posto francese veloce? Cosa? Posto francese veloce? Chartier, assolutamente. Dove? Chartier è nato nel 1890, un bellissimo ristorante tradizionale. Perfetto. Solo che ci sono tante salsettine, quindi... Va bene. Ragazzi, chi non piace le salsettine è andato in quello italiano. Vada. La Matta. La Matta. Che anche dà questa idea. In effetti ci sono anche delle ottime cameriere. Allora, okay, i contatti di tutti in mezzo a Parigi li abbiamo dati. Grande, abbiamo Mauro. I contatti, li dai tu, dai, i contatti del nostro programma. Dai, noi siamo, trasmettiamo da 102-200, il nostro sito è www.radiosandona.it, blog www.nowboardingradio.wordpress.com, Facebook Nowboarding Radio e la mail è nowboardingradio@gmail.com. Checco, ci siamo? Siamo in chiusura, occhio Mauro, perché qui ti abbiamo preparato un omaggio... Bella. Musicale barra cinematografico. Noi ti lasciamo con, così anche un po' ti interroghiamo, Bela Lugosi is dead. Chi era Bela Lugosi? Oddio ragazzi, Bela Lugosi era l'attore di Dracula. Ecco. Bela Lugosi is dead nella versione fatta dai Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, bellissima. Nouvelle Vague cos'era? Un movimento... Nouvelle Vague è un movimento cinematografico, ma anche un gruppo New Wave. Esatto, infatti il gruppo appunto prende il nome da quello, quindi qui a Nowboarding si fanno le cose pensate. Ragazzi, ma ne sapete un sacchissimo! È una radio intellettuale. È una radio puntata sulla cultura, in realtà questo è tutto ciò che noi sappiamo di cinema, finisce qui. Beh, ma è tanto da Nouvelle Vague. Beh, Wikipedia insegna. Mauro, grazie mille. Grazie mille, Mauro, è stato un piacere. Ciao anche per me. Saluti Parigi, noi ci vediamo. Vi lasciamo con i Nouvelle Vague. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao a te, Ricky. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ragazzi.